Ah, qua c'è una cosa particolarmente importante, oltre al fatto che la vettura si può trasformare a GPL, che è una strategia che cerchiamo di portare avanti. La cosa molto importante per noi è il fatto di aver dotato la vettura di serie, proprio come un equipaggiamento di serie, del filtro antiparticolato. Prima era un'opzione che lasciavamo al cliente, circa il 50% dei clienti che sceglievano le versioni diesel decidevano di avere una versione con il filtro antiparticolato. Adesso abbiamo messo di serie in modo da far sì che anche l'altro 50%, quello che prima non sceglieva questa versione, adesso sia in qualche modo obbligato a rispettare l'ambiente. Questo abbiamo voluto fortemente farlo. GPL invece punterete su questo carburante? Naturalmente sì, continuiamo. Noi abbiamo una collaborazione con Landi Renzo per una installazione successiva ed è una collaborazione che sta funzionando. Le macchine danno delle performance assolutamente valide, assolutamente positive, quindi continuiamo anche su questa strada. Dal punto di vista tecnologico, anche in questo caso erediterete la ricerca e lo sviluppo Volkswagen, immagino, per gli ibridi e un domani l'elettrico. Ma questo sì, io mi permetto di dire che non solo ereditiamo, ormai ci sono anche degli scambi di tecnologie fra le nostre case madri e siamo anche sicuramente molto partecipi di questo, non solo degli eredi.